Sto perdendo tempo, sto perdendo Dio. Sto perdendo la vita, sto perdendo io. Inseguendo un sogno che non è il mio. Cercando di essere diverso da quel che sono io. Può perdere l'anima, stavo per vendere l'anima, non si può perdere, devo salvare la mia anima. Mi credo di essere una rockstar. Non si può perdere l'anima. Stavo per vendere l'anima. Non si può perdere. Devo salvare la mia anima. Perdendo io, ma che cosa mi credo di essere io? Ma quante scuse so trovare io? Non posso perdere l'anima, stavo per perdere l'anima. Non si può perdere, devo salvare la mia anima.